Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 8 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero, e oggi ci occuperemo di parole, nel senso che parleremo di blog, visto che internet ormai fa parte della nostra vita, perché lo troviamo sui telefonini che ormai sono tutti smart, cioè intelligenti in qualche modo, smartphone, e l'intelligenza sarebbe nel modo giusto di usarli, forse dovrebbero chiamarsi smart per i proprietari, però vabbè, a parte questo, internet ce lo troviamo dappertutto, lo utilizziamo magari anche senza rendercene più conto, l'abbiamo nelle TV più nuove, per cui oltre alla televisione normale che possiamo ricevere abbiamo anche la possibilità di collegarci a internet per, non so, avere le ultime notizie, gli aggiornamenti o anche navigare in rete, addirittura i lettori Blu-ray si collegano a internet, insomma la rete fa parte della nostra vita e oggi vedremo come può informarci nel vero senso della parola e cercare anche di capire se attraverso l'informazione o alla scrittura di blog, in questo caso, o di siti che danno notizie, è possibile costruirsi un lavoro, guadagnare dei soldi, cercare di impostare la propria vita in base alle informazioni che diamo e a quello che scriviamo in rete. Di questo e altro parleremo, ma sempre girando intorno ai blog nel riposo del guerriero di oggi, ma le informazioni per giocare anche, perché alle 11.30 ci sarà il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. Come sempre la risposta può essere una delle notizie della settimana oppure un personaggio o qualcosa di famoso, ed ecco il primo indizio. Per prenotarvi subito potete farlo adesso 800 24 00 24. Oggi parliamo quindi di blog e di blogger, ve ne consiglieremo anche di particolarmente divertenti e curiosi e altri invece particolarmente interessanti. Se volete segnalare il vostro blog o magari delle notizie che avete trovato proprio leggendo in rete curiose, fatemelo sapere con gli sms al 349 238 6666 o sulla nostra pagina di Facebook Il riposo del guerriero. Pronti a scrivere e a leggere. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Beh, ovviamente ho scelto questa traccia, devo dire, molto famosa, Mina con la voce di Alberto Lupo, in parole, parole, parole, perché di parole parliamo, appunto. Silvio De Rossi, ciao, buona domenica. Ciao, ciao a tutti. Allora, Silvio De Rossi è il direttore di Blogosfere, che è una delle piattaforme italiane di blog più vasta della rete, e insomma cominciamo a parlare di blog, nel senso spieghiamo cosa sono i blog una volta per tutte, più che altro cosa sono oggi, perché erano nati come diari personali e esatto, poi tutto è cambiato. Sì, diciamo che la coscienza popolare vede un po' il blog come un diario personale, cioè un qualcosa che io scrivo per raccontare quello che faccio, quello che mi piace. Nel tempo quest'idea si è un po' sviluppata, adesso il blog tradizionalmente fa informazione, i blog sono cresciuti dal punto di vista qualitativo, quindi diciamo che in questo momento andando su un blog si riesce ad avere un tipo di informazione parallela al giornalismo tradizionale. Ecco, anche perché forse questa funzione di diario ormai l'ha presa in mano Facebook. Assolutamente. Diciamo che in questo momento, se ci pensiamo bene, noi passiamo gran parte della nostra giornata su Facebook, anche se rimane aperto sul nostro PC, non lo guardiamo, ogni tanto andiamo a vedere, qualcuno mi ha lasciato un commento, c'è una notifica nuova, quindi diciamo che in questo momento Facebook la fa da padrona, perché se io, adesso parliamo anche di uno step superiore, se io sono bravo a creare dei contenuti interessanti, finendo su Facebook ho ancora maggiore visibilità, perché è molto più difficile che adesso una persona venga a cercare dei contenuti, ma si lasci in modo passivo, se li lasci arrivare addosso attraverso Facebook. Quindi direi che in questo momento Facebook è la piazza virtuale dove io, se sono in grado di dare un messaggio forte, questo messaggio lascia il segno, lascia l'impronta. Cioè, mi stai dicendo che il blog, lasciato sul blog, non ha abbastanza forza se non, diciamo, richiamato su Facebook o su Twitter, cioè su una piattaforma di social network. Due punti fondamentali, direi. Il primo è che in questo momento, nella concezione della persona comune, internet è Google. Quindi io entro su Google, cerco una parola e quello che Google mi dà io accetto. Dall'altra parte, la mia bacheca, o comunque la pagina principale di Facebook, dove ci sono tutti i contenuti dei miei amici o degli amici dei miei amici, quella diventa un po' i due punti focali del mio avere informazioni. Dove comincio la mia ricerca di informazioni. Tra l'altro, prima di dare le linee al traffico, mi fai ridere perché dici una cosa molto vera. Addirittura molte persone, ma anche colleghi, non so, se tu gli dici vai su YouTube, non digitano youtube.com o it come sarebbe giusto fare. Vanno su Google, mettono YouTube e cliccano sulla prima ricorrenza, che chiaramente è il sito. E quindi è un passaggio francamente inutile, però è vero che ormai internet è associato. Ti aggiungo una cosa curiosa: tra le parole più cercate di Google c'è la parola Google. Ma questa però dichiara che siamo un po' scemi, scusami, no? Perché c'è un passaggio che adesso ne discuteremo. Il riposo del guerriero. Oggi parliamo di blog, di informazione, di come sta cambiando questo attraverso la rete, se è possibile guadagnare, come bisogna fare. Allora, Silvio, cominciamo a capire innanzitutto perché aprire un blog. Perché aprire un blog? La cosa fondamentale è avere qualcosa da dire, certo. Assolutamente. Che non è oggi ho fatto questo e ho mangiato la pasta. Posso raccontarti un po' la mia esperienza? Sì. Io sin da piccolo sono sempre stato un po' polemico, a volte un po' troppo polemico. Mi piace comunque dire la mia, mi piace dare il mio parere. Un blog è fondamentalmente... Scusa, rido, sì. Perdonami, scusate l'interruzione, però devo spiegare perché rido, certo. Sorrido almeno. Sì. Perché un mio amico aveva fatto i biglietti da visita, sì. E come mestiere aveva scritto polemista. Fantastico, molto... ci può stare, potrebbe anche essere un titolo adatto di per un blog. Assolutamente. Lo apriremo sicuramente. No, quindi bisogna avere qualcosa da dire, soprattutto bisogna avere delle posizioni nelle quali si crede realmente ed essere appassionati di un argomento. Questi credo che siano due punti fondamentali, quindi amo tantissimo un argomento, lo seguo, ne voglio discutere con altre persone, quindi apro un blog e scrivo di questo argomento. In quel modo posso incontrare gente che lascerà dei commenti sul mio blog, accrescere la mia cultura su quel tipo di argomento e confrontarmi. È un po' come quando in passato si andava al bar e magari si discuteva di qualcosa. Adesso le distanze sono azzerate grazie a questo fantastico strumento che è il nostro computer o comunque smartphone e tutti gli altri, e quindi io posso discutere non solo con la persona che incontro al bar, ma anche magari con qualcuno che vive in Australia e può tranquillamente lasciarmi una domanda o dirmi qualcosa e io interagire con lui. E confrontarmi, ovviamente. Assolutamente. Davide Maggio, ciao, buona domenica. Buona domenica a voi. Allora, buongiorno. Davide Maggio ha un sito, si chiama davidemaggio.it, che è un blog, appunto. E vabbè, tu hai cominciato la tua passione per la televisione, immagino, visto il contenuto. Sì, è successo 6 anni fa, ma un po' per gioco, come diciamo iniziano un po' tutti, poi si è trasformato in un lavoro vero e proprio, tanto che purtroppo si chiama Davide Maggio, purtroppo per fortuna si chiama davidemaggio.it, ma siamo in 20, per cui è diventata una cosa un po' diversa. Ecco, allora quindi raccontiamo un po' il tuo percorso. Tu hai cominciato aprendo un blog che raccontasse di televisione, giusto? Esatto. Poi cos'è successo? Cioè, perché hanno cominciato a leggere il tuo blog più di altri? Sullo stesso argomento? Guarda, probabilmente perché io ho sempre cercato di fare qualcosa di diverso, nel senso che volevo che ci fosse un tipo che l'utente trovasse da me delle informazioni che altrove non riusciva a trovare, per cui mi sono un attimo specializzato in indiscrezioni, anteprime, quindi volevo fornire delle notizie sulla televisione arrivando prima degli altri. Ma dove le trovavi queste notizie? Avevi gli informatori, non so, nascosti, appostati? Sì, perché all'inizio mi sono detto tutti bene o male sapranno qualcosa, per cui anche magari, sai, quando ho iniziato non conoscendo io nessuno, né tantomeno conoscendomi nessuno, io puntavo su persone facilmente abbordabili, tra virgolette. Ma tipo? Quindi, ma magari anche per esempio l'animatore del pubblico, oppure la persona che fa le pulizie in studio, per assurdo. Sì, no? Sono quelli che sanno di più, quella truccatura. Animatori del pubblico, bravo, sono quelli che bravo conoscono tutti i retroscena, è vero. E anche perché di televisione, caro Stefano, ne sai qualcosa. Sì. Mitico, vabbè. Quindi, dicevo, ne sanno tanto e soprattutto hanno voglia di parlare. Questa è la cosa incredibile, cioè c'è il gusto da parte... Beh certo, perché manca, è l'unico modo per mettersi in mostra, perché esatto, lavorando dietro le quinte hanno voglia invece di essere visti o ascoltati in qualche modo. No? Proprio così. E poi la cosa è diventata forse anche un po' più grande di me, perché non pensavo che poi potesse suscitare tanto interesse. Noi siamo arrivati ad ottobre, dico noi non perché faccio come il mago, perché del, hai dovuto costruire un team, perché non hai, cioè esatto, per seguire comunque la frequenza di aggiornamento delle tue notizie, sì, hai dovuto ovviamente costruire un team che paghi, quindi tu guadagni. Certo, perché sai, il blog all'inizio ti rende veramente molto poco. Quando superi una soglia critica, e quindi parlo ovviamente di pagine viste, no? Allora si possono incominciare a fare dei discorsi pubblicitari un po' differenti, e poi diventa un giornale, funziona come un giornale a tutti gli effetti, chiaramente con le opportune distinzioni. Ecco, senza però chiedere nessun abbonamento e nessuna iscrizione, giusto? Bravo. Perché è libero. Esatto. Però tu riesci, ma tu vivi di questo adesso? Guarda, io ho dovuto mettere in piedi una società proprio che gestisse, quindi editorialmente, il blog, e poi il blog, siccome l'ho inteso all'inizio sempre come vetrina, proprio per far vedere, guardate, io di televisione so questo. Allora era una vetrina per cercare un lavoro, in sostanza, perché mi affascinava come settore, e quindi è diventata poi, oltre al blog, è diventato un lavoro vero e proprio, perché noi facciamo anche consulenze in ambito televisivo a determinati artisti o anche ad addetti ai lavori, società televisive, quindi in generale diciamo attività di comunicazione e in generale legate alla TV proprio a 360 gradi. Quanti anni hai, Davide? 33 appena compiuti. Quindi insomma, hai cominciato a 27 anni. Avevi. Lasciatemi aggiungere che no, secondo me una cosa molto importante è che Davide non è cambiato nel corso di questi anni. Il suo approccio con internet e il suo modo di rapportarsi con le persone attraverso questo strumento non è cambiato. Il fatto di crescere anche dal punto di vista, prima essere lui il blogger, io lo leggo da tantissimi anni e devo dire la verità che non mi sarei mai avvicinato a degli argomenti se lui non ci avesse regalato delle chicche anche molto divertenti e interessanti. Quindi, grazie caro. Ma figurati. E questo secondo me è molto importante, non cambiare, cioè non cambiare atteggiamento, restare quello che si è, e per quel motivo si è avuto successo sul web, e per quello stesso motivo si continuerà ad avere successo anche in altri ambiti, non solo internet, grazie a quello. Beh, quello che fa la differenza poi, questo vale per ogni tipo di arte, no? E anche il giornalismo, perché tutto è arte secondo me nella vita. Dimmi, Davide. Ecco, io no, una cosa a me mi piacerebbe dirla, perché noi parliamo tanto di web alla fine, sì, questo è il momento bene o male del web, perché è diventato, come secondo me è destinato, ancora non c'è stata una sostituzione completa, però il web è destinato a sostituire l'editoria tradizionale, secondo me, o quantomeno a ridimensionare. Ne cercheremo di parlarne oggi, credo che gli argomenti siano talmente tanti non ce la faremo mai, ma magari questa puntata la splitteremo, la divideremo in due parti. Grazie intanto Davide, vi ricordo il sito che è davidemaggio.it. Senti, davvero complimenti, bravo. Grazie mille, complimenti a voi e buona domenica. Ciao, grazie. Ciao, anche ciao, grazie. Perché offre anche lavoro ad altre persone, perché bisogna pensare questo. Assolutamente. Quanto si può guadagnare e quanto tempo ci vuole, Silvio? Diciamo che in partenza bisogna farlo esclusivamente per passione, bisogna provare. Io ho iniziato a fare il blogger nel 2006 anche perché mi è stata data questa opportunità. Ho guardato un po' male Marco Montemagno quando mi ha detto: perché non apri un blog su Blogosfere? Sono andato a cercare, ti dico la verità, su Wikipedia la parola blog. Sì, perché Marco è stato il creatore, no? Assolutamente, il creatore di Blogosfere. E da quel momento ho iniziato a capire che scrivere sul web in maniera molto più personalizzata rispetto al classico giornalismo avrebbe portato un qualcosa in più. Quindi sono cresciuto proprio dal punto di vista dialettico per la scrittura sul web e lentamente ho fatto un percorso. Quanto si guadagna e perché si guadagna? All'inizio si deve fare per passione, si deve crescere dal punto di vista del traffico. Quello che è fondamentale è avere un bacino d'utenza interessante. Più è alto, più i brand si potranno avvicinare al tuo blog, più vorranno sponsorizzare il tuo blog, mettere dei banner o delle pubblicità all'interno del tuo blog. C'è un modo anche più semplice legato ai classici annunci di Google. Quindi io fornisco degli spazi pubblicitari del mio blog, sì. Dico a Google che li può riempire lui con della pubblicità e mi dà una percentuale a secondo di quante volte vengono visti, quante volte vengono cliccati. Quanto si guadagna? Si può guadagnare da zero al mese a sì. 500 euro al mese fino a fare, come si suol dire, il botto, quindi magari a crescere e riuscire a vivere esclusivamente del tuo blog. Quello che dico io personalmente è che all'inizio, quando si fa poco traffico, si deve studiare tanto la rete, studiare tanto come e perché arriva traffico, ma non ammalarsi mai di questo, perché ammalarsi di traffico significa diventare monotoni, fare ciò che fanno tutti. Ecco, quello è forse un po' il problema dello share televisivo. Assolutamente. Fine, no? Funziona sono nello stesso modo. Sì. Per quella fine ti equipari a tutti perché sai che quella cosa funziona e la fai poi alla fine troppe volte, esatto. Stanca, non funziona più. Esatto. Grande quella, fratello insegna. Assolutamente, cioè un programma funziona e viene rivisto e corretto ma mantenuto sempre chiaro. Quello su tutti i canali, questo non funziona perché appiattisce, non c'è più qualità. Quindi non farsi uccidere dal numero. Assolutamente no, drogarsi di audience. Sì, certo, questo, la stessa cosa, l'audience o di traffico è l'audience del, significa del non capire più, perdere anche l'idea che si aveva del proprio blog e andare su argomenti che magari non si aveva intenzione di seguire. Eleonora Bianchini, ciao, buona domenica. Buona domenica a voi, buongiorno. Eleonora si occupa invece di un blog con un argomento molto diverso da quello televisivo, anche se spesso la politica in televisione ci va, Eleonora. Certo, assolutamente. Infatti tante volte sul blog riprendiamo quello che succede a Ballarò, per esempio, all'Infedele. Ecco, allora Leonora, la tua passione, allora il tuo blog si occupa di politica, appunto, si intitola internetpolitica.blogosfere.it e la tua passione nasce proprio da quella politica o hai individuato un tema che ti interessava come altri? Ma certamente la politica è sempre stato uno degli argomenti più interessanti, più intriganti. Poi ricordiamo che anche il panorama italiano si presta a, in particolare quando c'era ancora Berlusconi, bisogna sì. farlo presente, ne sentiamo tutti la mancanza dal punto di vista mediatico e dal punto di vista del traffico, come diceva anche Silvio. Per cui è un argomento che si offre sicuramente a molte riflessioni. E la politica, i politici almeno, hanno cominciato ad adottare negli ultimi anni, per necessità, anche la comunicazione via web, che però si è spostata, appunto come dicevate prima, dal blog a Facebook, per cui tante volte adesso il blog diventa semplicemente una pagina istituzionale dei politici e i commenti invece degli elettori vengono fatti su altri social media come per esempio Facebook e Twitter, che è diventato un po' lo sport nazionale. Cos'è che fa la differenza del tuo blog rispetto ad altri per quanto riguarda la questione politica, appunto? Ma guarda, sicuramente su internet e politica vengono seguiti principalmente gli eventi del giorno, quindi due o tre post al giorno che riguardano le notizie più importanti di politica. E poi mi piace molto anche richiamare, segnalare altri blog che considero straordinari all'interno del panorama italiano e che si occupano di politica, come per esempio BioBlu, Non Leggerlo, oppure Il Nichilista di Fabio Chiusi, che comunque riescono anche a scovare la piccola notizia, dare darle rilevanza, a scovare la dichiarazione che tanti giornali avevano perso e a rilanciarla e di conseguenza a dare visibilità a quello che sui media tradizionali si era perso. Ecco, quindi un po' come abbiamo sentito prima con Davide Maggio, fondamentalmente è svelare un po' il dietro le quinte che funziona, certo, in rete, sì, perché è quello che non, che trovi più difficilmente o che non trovi affatto sulla carta stampata. Per esempio, il riposo del guerriero. Nuovo modo di informarsi, beh, nuovo per modo di dire, però adesso comincia davvero a entrare nella vita di tutti i giorni, anche per il fatto che, come dicevo, i televisori di oggi si possono collegare alla rete, quindi possono pescare anche quelli che sono i feed, così si chiamano i titoli dei vari post, ovvero delle notizie scritte sui blog. Lo so che uso parole un po' particolari, forse molti ascoltatori non riescono ancora a masticare, lo capisco, però cerchiamo anche di spiegarlo. Allora, siamo al telefono con Eleonora Bianchini, stiamo parlando del suo blog che è Internet e Politica. Eleonora, una domanda: perché un blog diventa autorevole? Per esempio, perché il tuo blog, secondo te, ha cominciato a essere scelto, letto? Cioè, perché io devo fidarmi di quello che scrive una certa Eleonora Bianchini, che non so neanche chi sia? Certo, questa è una bellissima domanda, nel senso che la credibilità e l'autorevolezza dei blog si costruisce davvero nel tempo con un lavoro abbastanza capillare, quotidiano, appunto sulle notizie. Per quanto riguarda il lavoro che ho fatto su Internet e Politica, sicuramente ci sono stati dei momenti che hanno dato visibilità al blog, per esempio quando abbiamo seguito le elezioni iraniane, per cui sono entrata in contatto con dei dissidenti direttamente a Teheran oppure in altre università iraniane, e attraverso Skype e altri social media siamo riusciti a ricevere le informazioni che i giornali, la stampa tradizionale non riusciva più a ricevere perché i media sostanzialmente erano stati bloccati dal regime. Oppure anche il fatto di ripescare appunto tra le pieghe dell'informazione delle dichiarazioni interessanti, ricordiamo per esempio, non era esattamente su Internet e Politica ma sempre su un blog di Blogosfere, la dichiarazione di Antonio Mastrapasqua, il direttore dell'INPS l'anno scorso, che aveva detto che ai precari non sarebbe stata data la possibilità di fare previsioni sulla propria pensione perché altrimenti sarebbe scoppiata la rivolta sociale. Questa frase, questa dichiarazione, un virgolettato, era all'interno di un pezzo, un pezzullo del Corriere della Sera di una domenica di ottobre, è stato rilanciato sul blog e ha fatto oltre 70.000 condivisioni tra il post e tra Facebook, per cui in realtà i meccanismi della rete, dell'autorevolezza anche di un post piuttosto che di un blog si costruiscono nel tempo, ma sono anche abbastanza misteriosi, abbastanza sorprendenti anche per chi ci lavora da qualche anno come nel nostro caso. Eleonora, quando tu vivi di questo hai un altro mestiere anche? Io vivo anche di questo. Sì, però sono anche giornalista per il Fatto Quotidiano. Ok, per cui insomma metti insieme due cose, però riesci a guadagnare qualcosa anche dal tuo blog, quindi. Sì, assolutamente. Poi all'interno ricordiamo del circuito di Blogosfere, per cui non segue esattamente la dinamica tradizionale di chi apre un blog su altre piattaforme indipendenti. Ecco, adesso infatti ne parliamo proprio con Silvio De Rossi, che è il direttore, per capire il meccanismo fra scegliere una piattaforma e aprire un blog invece in modo individuale. Intanto grazie Eleonora e buona giornata. Grazie ciao, a voi, grazie. Buona giornata. Buona domenica. Internet e politica.blogosfere.it. Allora Silvio, sì. Appunto l'autorevolezza. Come una, voi siete una piattaforma, spiego agli ascoltatori, una piattaforma vuol dire un sistema che raccoglie più blog con vari argomenti, ne avete tantissimi, e che quindi in qualche modo certifica anche l'autorevolezza dei blog contenuti. Certo. Però quindi c'è un lavoro a monte. Voi come dite, sì, il tuo blog può far parte del nostro circuito oppure non ne può far parte? Ma è piuttosto semplice, diciamo che Blogosfera è un network di blog, tutti di Blogosfere. Noi cerchiamo blogger, appassionati, giornalisti, web editor che hanno voglia di far parte di questo network. Quindi si parte sempre da un presupposto. Parliamo con una persona, questa persona ha una passione o comunque una professionalità legata a un argomento, allora insieme a questa persona possiamo sviluppare un nostro blog con un nome determinato e con dei contenuti che poi verranno prodotti per quanto riguarda quell'argomento. Ti faccio un esempio, così sì, magari i nostri ascoltatori capiscono anche meglio. Diversi anni fa abbiamo incontrato Duccio Fumero, che è adesso attualmente il blogger a livello europeo, come blog italiano di rugby, di palla ovale, sicuramente più importante. L'abbiamo incontrato, abbiamo iniziato a discutere con lui della possibilità di aprire un blog sul rugby. Diciamo che in Italia il rugby non è mai stato uno sport nazionale, però avendo una persona veramente appassionata, un giornalista molto serio che ha sempre trattato l'argomento, abbiamo aperto un blog che è piaciuto, ha conquistato utenti. E uno dice, non ha un bacino d'utenza molto ampio, ma se tu hai il 100% di quel bacino d'utenza, avrai un bacino più alto di chi magari parla di gossip ma deve dividersi con altri mille. Chiaro. Quindi avendo una persona giusta e aprendo un blog dove i contenuti hanno comunque creato buzz e hanno creato un circolo di persone costante, abbiamo così prodotto un blog che in questo momento fa molto traffico e ha una visione non solo italiana. Ecco, quindi funziona così e quindi si crea poi autorevolezza. Vi è successo invece di avere dei blog che poi avete dovuto chiudere in qualche modo perché mancavano di autorevolezza, non erano seri, insomma aver preso un granchio da questo punto di vista? Questo può succedere, diciamo che un'occasione la si dà a tutti, non si nasce blogger, quindi ognuno merita di poter scrivere. Diciamo che prima di andare online io e comunque il coordinatore dei blogger Riccardo Mantica guardiamo tantissimo i contenuti che vengono scritti, facciamo delle prove insieme alla persona che vuole scrivere con noi e dopo qualche pezzo, qualche articolo, qualche incontro, diciamo proviamo ad andare online. Succede che a volte la persona non si trova, non riesce a confrontarsi con l'utente, non riesce magari a dare quello che magari ti dà parlando, magari una persona è eccezionale alla radio ma scrivendo sul proprio blog non ha lo stesso appeal. Certo. Quindi conta tanto buttarsi, cioè se non vai in bicicletta non sai se riesci a stare in equilibrio, no? Quindi e non sai se ti piacerà, quindi l'importante è provare e questo è molto importante anche su Blogosfere, dare un'occasione a tutti. Quando parlavi di quello che sa fare la radio ma non sa scrivere il blog, ti riferivi a me? Assolutamente no, perché ti leggo sempre. Grazie. Tancredi, ciao, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica. Allora, Tancredi ha deciso di aprire un blog, ormai quanti anni sono? Circa 4 anni fa, poco più di 4 anni da fa. Da quando sei nato, no? Più o meno, perché Tancredi è giovanissimo. Tancredi in culla aveva già il portatile. A 20 anni circa. Senti, e tu hai cominciato a scrivere di tecnologia perché era la cosa più facile per te? Perché era la cosa che mi ha sempre appassionato fin da piccolo e quindi ho deciso di divulgare in rete la mia passione. Ecco, il fatto che, come diceva adesso Silvio, tu hai scelto un argomento del quale si occupano il 80% dei siti internet, tra virgolette. Un po' alta la percentuale, appunto, ma per capirci, ovvio, perché tecnologia e internet stanno proprio affiancati. Perché il tuo ha così tanto successo, che è Venorba Blog, eccolo, diciamo, venorba.com. Venorba ha successo, diciamo, per le informazioni che riesco a divulgare informandomi sui blog internazionali più popolari e quindi seguendo un po' quello che succede all'estero, io riporto le notizie più interessanti oppure creo dei contenuti come guide, eccetera. Ecco, quindi tu sei un po' un aggregatore umano, cioè nel senso che vai alla ricerca di notizie interessanti, le traduci in italiano, perché poi quello è fondamentale, essere anche giusti per la propria nazione, perché la lingua è fondamentale in questo caso, e oppure crei contenuti che sai che possono essere interessanti per l'utente, tipo le guide che richiedono molto tempo per essere scritte. E però sono interessanti perché le guide su internet le cerchiamo tutte. Tu arrivi a guadagnare oggi con Venorba Blog? Guadagno abbastanza, diciamo che faccio anche altro e ultimamente ho aperto il blog anche nella versione inglese. Sì. E ho preso un po' di gente che mi dà una mano, anche che vive all'estero. E per tenere questo sito. Ecco, ma che riesci per esempio a pagare, adesso voglio dire, se magari non a stipendiare, non vivranno solo di questo, però riesci anche a dargli qualcosa oppure stanno? Sì, per cui è un grande successo. Te lo aspettavi in qualche modo? No, io ho iniziato proprio per gioco, cioè da ragazzino compravo le riviste di informatica in edicola così. Quelle che scrivevo io, in poche parole. Tu da quello che scrivevo io sei arrivato, hai capito come ha funzionato in Silvio. Tancredi, gli devi una percentuale. E quindi da lì dici, io comincio a scrivere, mi piace, poi sei riuscito a trovare una chiave e alla fine sei riuscito. Va bene, complimenti. Vabbè, poi noi ci conosciamo, ho conosciuto Tancredi nel corso di una convention, insomma è veramente molto in gamba. Bravo, grazie Tancredi. Ciao. Buona domenica. Ecco, quindi si comincia per gioco e poi addirittura succede questo. Ma sì, perché ad esempio Tancredi è una persona che sa le cose che poi scrive e quando tu le leggi lo capisci, quindi spesso e volentieri su internet si va facendo una domanda a Google. A volte se vai a vedere come si arriva su un blog, la gente scrive come faccio oggi ad andare al cinema e gli mette anche il punto di domanda. Quindi io faccio così ormai, ho capito che funziona. Assolutamente. Ma non ci credevo. No. Invece adesso il motore di ricerca è così sofisticato, sì, per cui quando metti il punto di domanda capisce che stai facendo una domanda. Assolutamente. Quindi arriva a darti delle risposte anche interessanti. E quindi in questo momento se non sai usare un determinato telefonino, uno smartphone, non sai usare un iPad, basta fare dei pezzi, dei post, tutorial interessanti. Ecco come usarlo al meglio, ecco che cosa significa questa parola e sicuramente farai traffico, perché questi sono pezzi che si definiscono evergreen, cioè oggi servono, tra un mese servono ancora, a meno che non esca un prodotto. Certo, sì. Però questo è un articolo che non è legato solo alla breaking news del momento, quindi è successa questa cosa, ne parliamo, ma è una cosa che da oggi in poi potrà sempre portare del traffico. Certo, è la guida che tu usi sempre. Assolutamente. Ecco, quanto tempo ci vuole a scrivere un blog? Perché adesso vi dico, per esempio, io ho diversi blog e uno è quasi morto ma adesso resusciterà, e quello sui videogiochi invece, però io ho fatto una scelta iniziale, cioè io lo scrivo, non voglio guadagnare niente, però non datemi l'obbligo di aggiornarlo tutti, certo, i giorni, perché non ho il tempo per farlo. Certo. E perché c'è anche questo tipo di scelta che si può fare. Assolutamente, in realtà è fondamentale, ogni giorno un blog deve avere un contenuto nuovo se vuoi fare del traffico. Sì, ovviamente deve essere vivo, anche perché tu parlavi dei feed. I feed non sono altro che delle segnalazioni, tu richiedi il feed di quel blog e ogni volta che quel blog ha un nuovo contenuto ti arriva una segnalazione e quindi tu vai a leggere. Se le segnalazioni sono una volta alla settimana, una volta ogni 4 giorni, si perde un po' il rapporto col blog. Per forza, certo. Quindi se io tutti i giorni ho qualcosa da dire, ma anche solamente 2 righe su una cosa che è successo, la segnalazione di un video che io reputo importante su YouTube, la segnalazione di un contenuto di una guida, come dicevi tu, scritta da un altro blog, allora il mio blog sarà vivo costantemente e sicuramente il traffico non potrà far altro che crescere. O mantenersi. Assolutamente. Ecco, quindi questa è una bacchetta tra me, ma è giusto. Allora, va bene così, ma perché voglio far capire agli ascoltatori che ci vuole veramente del tempo e comunque bisogna dedicarci. Sì. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che se durante il giorno una persona, come è giusto che sia, lavora, o almeno si spera che abbia un lavoro e quindi porti a casa uno stipendio, se non vive solo del suo blog probabilmente riempirà gli spazi tra virgolette morti, quindi magari la pausa pranzo oppure la sera dopo cena. Conosco tante persone che per passione dopo la cena e dopo magari aver giocato un po' col figlio oppure visto un film con la moglie si mette un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora per fare un post sul proprio blog. Farò così. Il riposo del guerriero. Silvio, ciao, e di nuovo, ma ti devo leggere un messaggio. Assolutamente. Che non è firmato. Allora, che noia questo web. Sembriamo tutti scemi, con i PC davanti agli occhi tutto il giorno, con i dirigenti con il carrello porta computer, con la I è scritto, faticano solo a tirarlo. È ovvio che quando devono lavorare sono stressati e basta che il web è uno strumento di libertà. Lo leggo come è scritto. Sì. Le rivoluzioni e le magne carte ci sono state in tutti i secoli. Viva l'odore di archivio cartaceo. Beh, insomma, è la storia che va avanti. Sicuramente è molto importante non dimenticarsi da che cosa veniamo, il nostro passato, la storia, ma è molto importante anche saper guardare al futuro nel modo giusto. Tante rivoluzioni che ci sono state ultimamente nascono dal web perché le persone possono vedere come vivono i giovani, possono vedere come vivono i giovani in altri paesi. Prima forse questa cosa... Ma io credo che le rivoluzioni che ci sono state, le ultime, sono arrivate proprio da questo. Assolutamente. Quindi... La carta arriva tardi. La carta arriva tardi e spesso e volentieri, magari in determinati paesi, arriva un po' artefatta, cioè quello che c'è scritto sopra non è proprio quello che succede realmente. Se tu hai la possibilità di leggere giornali di altri paesi dove magari si ha la libertà di poter dire come stanno andando le cose, allora forse è più semplice per te aprire gli occhi. Ecco, anche questa concezione è molto vecchia, mi perdoni l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ha scritto il messaggio, lo prendo solo come esempio, ma perché giustamente pone una domanda. Assolutamente, si rispetta tutto. Assolutamente, ma quello che scrive dice che noia questo web, sembriamo tutti scemi davanti al PC, no? L'incipit è questo. Sì. Ma non sarà così, nel senso che ormai internet e la rete non sarà sul PC, ma è... su uno strumento che abbiamo con noi con tutti i giorni, perché il telefonino ce l'abbiamo tutti i giorni e l'avremo sempre di più. È inutile dire, compreremo probabilmente anche il giornale, certo. Perché il giornale è un'altra fonte ed è comunque diverso dalla lettura su internet, ma le due cose insomma dovranno vivere per forza insieme. È fondamentale intanto far crescere dal punto di vista digitale comunque il classico italiano medio. Diciamo che molti di noi hanno 2-3 telefonini, hanno magari un iPhone, citiamolo tranquillamente, e lo utilizzano solo per telefonare, quando in realtà hanno in mano un oggetto che gli permette di fare tantissime altre cose. Quindi forse molti di noi non hanno la cultura per poter utilizzare uno strumento al 100%. Ma i nativi digitali ci sono, per cui esatto. Cioè, tempo, veramente 10 anni. Esatto, basta ascoltarli e soprattutto avere qualcuno che ci dica realmente come utilizzare gli strumenti che abbiamo. Noi siamo già vecchi in questo senso. Però, tornando alla carta, c'è Thomas Pololi. Pololi, è giusto l'accento? Ciao Thomas, buongiorno. Ciao, è giusto l'accento? È giusto. Pololi, ecco qua. Perché sbagliavano sempre quando andavo a scuola. Ecco, invece non mi sono sbagliato, hai visto, meno male. Allora, Thomas ha costruito un blog che credo che non ti faccia guadagnare niente, non lo so. Però. No, assolutamente mi fa spendere. Ti fa spendere, ecco, questo è un altro aspetto interessante. Ma hai avuto un'idea veramente molto carina. L'abbiamo scelto perché ci è piaciuto tanto. Allora, Thomas ha un blog che si intitola quadernini.blogspot.com. Andatelo a vedere, perché tu che cosa fai, Thomas? Io nella vita faccio il commesso cameriere in un sushi bar. Ecco, ma no, che cosa fai nel tuo blog? Però va bene anche questa risposta perché ci sta benissimo, quindi va bene. Hai risposto a due cose, te l'avrei domandato dopo. Così, evito domande. Esatto, va bene. Cosa fai in questo blog? Nel blog, niente, praticamente raccolgo quaderni delle elementari, diciamo, con attenzione soprattutto sui temi, sugli scritti dei bambini. Di tutte le epoche. Ma tu dove li hai recuperati questi qua? Perché ci sono veramente le digitalizzazioni dei quadernini delle elementari con i disegnini, le cose. Ed è bellissimo, perché ritorniamo al messaggio di prima: la carta non muore, cioè no. È un modo per non far morire la carta neanche sul web. E dov'è che vai a pescarli? Avrei cominciato da quelli della mamma, penso, del papà, non lo so. Da dove hai cominciato? No, ho cominciato dai miei. Dai tuoi personali. Ecco, sì. È nato tutto in realtà proprio una festa di blogger. Sì. Che si è tenuta qua a Milano, alla trattoria da lì, in un posto che è rimasto come era negli anni 50-60, e niente, ognuno poteva proporre quello che voleva. Io, siccome era una festa negli anni 80, negli anni 80 andavo alle elementari, avevo portato questi quaderni miei da leggere, perché ho scoperto che erano le cose migliori che ho scritto, le avevo scritte a 10 anni. E beh, certo, il tuo blog era il tuo quaderno delle elementari, bellissimo, è vero. Esatto. E niente, quindi dopodiché ho iniziato a chiedere in giro, a chiedere ad amici, a chiedere via internet tramite il blog, oppure li ho presi anche su eBay, alcuni li ho comprati su eBay. L'hai comprati? E poi ecco, con quale criterio lì? Cioè tu pubblichi le pagine che ritieni più interessanti, per esempio, di ogni quadernino? Sì, esatto, ma il criterio è proprio, diciamo, letterario in un certo senso, perché... io scrivo, ho sempre scritto così, sono mi piace la scrittura infantile quando arriva a toccare certe cose. Vabbè, io speriamo che me la cavo, no? Francamente la chiave è tutta lì e funziona. Sì, infatti la stessa cosa, solo probabilmente con un gusto un po' diverso, però il progetto certo. E devo dire che fa tornare veramente bambini da tanti punti di vista e ci fa pensare anche. Vuoi leggerci un pezzettino di un quaderno che hai scovato? Vabbè, leggo uno mio che però non parla di me. Si chiama Giocare con l'eco. 3 giorni dopo che ero arrivato al paese, Mario mi invitò a salire con lui su un poggio dove si sentiva l'eco. Io avevo letto qualche descrizione dell'eco, ma non ci avevo mai creduto. Risposi che tanto per far 2 passi potevamo pure andarci. Arrivati al poggio, avevo una specie di paura. Mario mi disse di gridare «Oh!». Cominciai ad aprire la bocca per gridare, ma subito mi trattenni. Mi volsi a Mario per dirgli di gridare prima lui. Egli rispose che ero un vigliacco. Mi credetti obbligato a risentirmi. Avendo cura di non alzare la voce, gli intimai di ridirlo. Lui non si fece pregare e disse di nuovo che ero un vigliacco, vigliacco, vigliacco. Ogni volta lo gridava più forte. Sentii lontano l'eco. Ammutolimmo tutti e due con l'orecchio teso. Poi Mario scoppiò a ridere chiedendomi se l'avevo sentito. A me il cuore batteva. Ecco, questo è... Beh, devo dire, a parte che è scritto anche molto bene. Assolutamente, fantastico. Quanti anni avevi? Avevo 10 anni. Vabbè, insomma, quindi vedi che si comincia. È vero, scrivevo le cose migliori, diciamo. Sì, dopo hai smesso di scrivere bene, beh, può succedere. Senti, quante visite hai su questo blog? Sai che non ne ho idea, non ho installato quelle cose di Shine. No, ma ce le hai in automatico in realtà. Adesso è automatico. Sì, perché tu, siccome sei nel circuito Blogspot, è in automatico, hai anche l'accesso a questo, quindi non sappiamo quanti numeri hai, però a te dà soddisfazione scriverlo e sai che lo leggono, perché come l'abbiamo scovato l'hanno scovato un sacco di altre persone. Anche perché poi noi organizziamo delle serate in cui leggiamo dal vivo i quadernini e chiunque può portarli e leggerli. Quindi il blog diventa vivo, è un modo anche per incontrarsi, ognuno porta i suoi quadernini. Sì, a me interessa molto quello oltre al blog. E fate una serata di racconti tratti dai quadernini? Esatto. Beh, molto interessante, credo che sia molto interessante da tanti punti di vista, quindi complimenti davvero da... Tu gli fai, Silvio? Ti piace il blog? Ma guarda, è fantastico. E tra l'altro è straordinaria la risposta. Non so che traffico faccio, perché ti fa capire quanto. Che c'è per solo lui... la passione. Esatto, quanto per lui sia importante scrivere. E forse è proprio questo che darà valore. Assolutamente sì. Grazie, Thomas. Complimenti, grazie a voi. Davvero. Quadernini, sapete dove mandare. Cioè, come no? quadernini.blogspot.com. Il riposo del guerriero. Le 11:08 minuti, ancora buongiorno e buona domenica da Stefano Gallarini. Continuiamo a parlare di blog, sono insieme a Silvio De Rossi, che è il direttore di Blogosfere, che è una delle piattaforme italiane di blog più vaste della rete, e Mauro da Torino mi ha bacchettato, oggi è la mia giornata, continuo a Fantastico. Prendere, è da te. Sarà colpa mia. Ma insomma, dici come fare, o meglio a chi rivolgersi per aprire un blog. L'avrei fatto con calma, ma perché le cose da raccontare sono tantissime, anche solo per chi ne fruisce invece e non per chi appunto li vuole scrivere. Allora, rispondiamo innanzitutto prima di questa domanda te ne faccio un'altra, Silvio, scusatemi. Sì. Mi scuso con gli ascoltatori, ma ce ne sono delle altre, tipo la mercificazione. C'è qualcuno ha scritto sì, però anche i blog sono venduti. Diciamo che l'argomento marchette è molto caldo in rete. C'è un sottobosco, è inutile negarlo, c'è un sottobosco di marchette all'interno anche della blogosfera abbastanza sviluppato, quindi io do qualcosa a te e tu scrivi qualcosa di buono su di me. Succede, questo non significa che succeda solo sui blog, ma è inutile nasconderlo, succede anche su giornali, riviste, magazine, certo. Ovunque. Beh, quindi la cosa importante secondo me è che su un blog si capisce subito, perché... se un blog, l'esempio che faccio spesso a delle persone che vogliono avvicinarsi ai blog è questo: ogni auto che esce è sempre la più bella auto mai stata costruita, sempre, su qualsiasi giornale o comunque leggendo determinati contenuti. E questo è assolutamente impossibile. Quindi non acquistarla mai, perché tanto domani ne esce una esatto. ancora più bella. Per cui, Però secondo me la cosa importante è dire perché quell'auto è buona, perché è di sì. qualità, in quale valore ha. Quindi può essere utilissima per la famiglia, utilissima per chi ha bisogno di una city car che si posteggia facilmente, oppure per chi deve fare lunghi viaggi. Sviluppare la qualità di quell'auto in un articolo può essere utilissimo, e allo stesso tempo rimarcare magari le piccole pecche ti consente anche di confrontarti con altri prodotti, che ne sai, magari della stessa marca. Quindi la stessa marca potrebbe crescere dal punto di vista anche di visibilità con l'utente medio, dimostrando che non nasconde le piccole pecche legate magari a un prodotto che è in uscita. Quindi le marchette, diciamo, ci sono. Secondo me si capisce subito quando un blogger fa una marchetta, e soprattutto nel giro di poco tempo un blog che fa marchette va a morire. Esatto, perché non viene più, cioè l'autorevolezza famosa va a farsi benedire, per cui non ha più senso. Anche la perché gente i commentatori ti massacrano. Eh sì, lo so, e questo succede anche quando fai radio, per esempio. Certo. Allora, come si apre un blog e quanto costa? Costa zero, perché zero. Ormai le piattaforme di blog sono quantomeno gratuite per un po', e poi se ti piace magari alcune piattaforme spendi 2 euro al mese, ecco, per sì, tenere sì, aperto. Diciamo che stando larghi con i tempi, credo che per aprire un blog buono, bello, ci vogliano 3 minuti buoni, quindi insomma sì. assolutamente nulla. Si va su una piattaforma libera, WordPress, Blogspot, Blogger.com, insomma si va lì, ci si mettono 2 minuti, si sceglie un nome e il blog è aperto, poi va riempito di contenuti. Poi se parliamo dello stile, delle immagini, di come può essere articolato il blog, lì a secondo della bravura tua o del tuo gusto personale puoi comunque avere una vetrina diversa da quella certo, degli altri. Però bisogna anche dire che ormai le piattaforme che ospitano i blog gratuite offrono anche delle ipotesi, cioè nel senso vi dicono già sì, come può versioni. Essere il layout, ovvero come apparirà il vostro blog, i colori li scegliete voi, e poi insomma se volete una colonna, 2 colonne, 3 colonne, per cui comunque è semplice da aprire e anche bello da vedere ormai, no? I blog, fondamentalmente le piattaforme offrono una bella possibilità anche grafica. Assolutamente, lasciami aggiungere sì. che per chi magari non volesse aprire proprio un blog c'è non è una novità, ma adesso va molto, un Tumblr, che è tumblr.com sì. dove si può condividere di tutto, un file audio, un video, un contenuto, un tweet, un qualcosa che hai lasciato su Facebook. Quindi diciamo un modo per avere sì un blog, ma più che altro un catalogare cose interessanti che altre persone potrebbero voler vedere. Quindi questa è un'altra idea. Ecco, e se io invece poi volessi, io credo nel mio blog che ho cominciato a scrivere, sì. volessi proporlo a Blogosfere, cosa posso fare? Allora, in questo caso, più che proporlo a Blogosfere, si potrebbe aprire una sorta di blog parallelo su Blogosfere, dove si sviluppano magari gli stessi argomenti che tu hai sul tuo blog personale, e si riesce comunque ad avere un altro blog che tratta le stesse cose, correlato, che faccia da ponte col tuo personale. Oppure se, posso chiudere il mio e puoi decidere di assolutamente. Stare solo L'importante lì. È che sia sulla piattaforma di Blogosfere, proprio perché noi adesso facciamo parte di un gruppo molto grande, dove c'è anche blogo.it, che è un altro network, e siamo sotto il cappello di Populis, che è questo grande gruppo che crede tantissimo fortemente nei blog. Cosa bisogna fare però una volta che uno è così stato scelto per far parte appunto di un gruppo di blog? Sì. E che cosa, quali sono i doveri? Ecco, ci saranno anche dei doveri. Assolutamente, possiamo discuterne tranquillamente nel tempo, il tempo che una persona per scrivere, quanti contenuti vuole scrivere al mese, la lunghezza di quel contenuto, che tipo di link andare ad inserire all'interno del contenuto. Diciamo che ci sono diversi step a secondo del tempo che ci vuoi dedicare. Il contratto tra virgolette sarà un po' più articolato. Quello che io personalmente, comunque Blogosfere chiede a una persona che approccia questo network, è che ci metta tutta la sua professionalità. A noi interessa solo contenuti di qualità che la gente possa davvero utilizzare. Quindi scrivere tanto per fare o comunque tanto per portare a casa dei soldi a noi non e è infatti una cosa è quello che poi a volte mi spinge a non scrivere perché non ritengo sufficientemente interessante la cosa che ho in mente. Invece quando hai una cosa da dire allora lì si diventa assolutamente e questo è, in effetti è una bella chiave. Francesca Dragotto, ciao, non poteva mancare la nostra glottologa. Buongiorno, buongiorno anche a Silvio. Buongiorno. Oggi in versione blogger, Francesca. Esatto, sì. il mio interesse per i blog nasce proprio per lasciare un segno delle cose che faccio con il riposo del guerriero, quindi ho creato un po' di tempo fa Tuttopoli, tuttopoli.com sulla piattaforma WordPress, proprio per approfondire, prima fare una sintesi e poi approfondire le cose di cui parliamo ogni domenica al riposo. E c'è molto seguito, fra l'altro, ho scoperto. Sì, soprattutto tanti apprezzamenti anche lasciati non soltanto attraverso il blog ma anche attraverso l'email, attraverso Facebook. La cosa che mi piace di più sono le proposte, quindi gli utenti stessi che mi dicono perché non fare un approfondimento su oppure ho letto questo articolo, perché non commenti questa cosa, per cui è uno scambio proficuo da tutte e due le parti. Ecco, siamo felici di questo. Poi adesso c'è un altro blog del quale parleremo perché gli ascoltatori sono invitati ad andarci e a dire la loro dopo gli aggiornamenti sul traffico. Però prima volevo dire una cosa agli ascoltatori: tutte le segnalazioni che avete fatto di blog vostri non le dirò in onda perché diventerebbe una lista noiosa per gli ascoltatori, ma le pubblicherò tutte sulla pagina Facebook del Riposo del Guerriero, in modo che possiate anche proprio leggere come è scritto, cliccare e andarci direttamente. Quindi dopo la trasmissione li troverete sicuramente e continuate a segnalarli anche via SMS. Gli aggiornamenti sul traffico e poi preparatevi ad ascoltare il blog che vi citeremo con Francesco Dragotto perché sarete chiamati a riempire una parte di questo blog. Il riposo del guerriero. Strade in diretta. Le 11.15 in punto, attenzione sempre alle nevicate in atto sulle autostrade tra Piemonte, Liguria ed Ovest Lombardia. Camion scortati nei tratti appenninici tra Piemonte e Liguria e ricordiamo che oggi i TIR possono circolare in autostrada per consentire la distribuzione delle merci dopo la settimana di protesta. Tempo in peggioramento anche al centro-sud sul versante adriatico dove nelle prossime ore potrebbe cadere la neve a quote basse. Forti temporali sono in arrivo poi sulle isole maggiori e sulla Calabria in estensione a Lucania e Puglia. Infine, a chi è in viaggio sulla 3 Salerno-Reggio Calabria, segnaliamo che ci sono ancora stazioni di servizio non rifornite di carburante, in particolare sul tratto calabrese. È tutto, altri aggiornamenti tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. Ecco, allora, sappiate che dovete scrivere su questo blog che adesso Francesca Dragotto vi citerà. ilcosaelacosa.com. Eccolo lì, il coso e la cosa. Di cosa stiamo parlando, Francesca? Allora, prima di tutto parliamo di condividere una ricerca in tempo reale, perché da almeno 30 anni, più 40 che 30, c'è un interesse vivissimo nei confronti dei termini di sostituzione che normalmente i parlanti italiani usano quando hanno necessità di riferirsi agli organi sessuali. Sono state scritte intere monografie su questo argomento, ma tutte hanno, passatemi il termine la pecca, anche se pecca non è, comunque sono tutte caratterizzate dal fatto di reperire i termini di sostituzione, quindi quello che dico quando non posso dire quello che realmente mi viene in mente, appunto reperire termini di sostituzione da testi scritti. Io ho deciso insieme ad un gruppo di giovani collaboratori di mettere su invece un progetto che, sfruttando le potenzialità della rete, consentirebbe di raccogliere anche le forme che vengono utilizzate all'interno dei gruppi ristretti di utenti, che vengono utilizzate nell'oralità, quindi che vengono utilizzate all'interno di tutta la comunità linguistica italiana. E quindi il sondaggio, che poi è il cuore del mio blog, diventa fondamentale per capire chi dice cosa, quindi quali parole vengono utilizzate per parlare del coso, della cosa, del cosare, di tutto quello che normalmente non nominiamo utilizzando, almeno nei contesti formali, i termini che invece in altri contesti ci verrebbero in mente. Certo, poi da questo nascerà una ricerca vera e propria, cioè ci sarà un alla fine tirerai le fila, no, di questa di in un volume. Esattamente, sì, è una ricerca di durata biennale che parte dall'esistente naturalmente e che man mano viene implementata con esattamente con quello che viene segnalato dall'utente. Quello che chiedo all'utente che decide di partecipare al sondaggio, naturalmente in maniera del tutto anonima, è di dare delle coordinate su se stesso o sulla persona che ha utilizzato il termine segnalato. Questo proprio perché, al di là della raccolta, dell'accumulo di termini, quello che mi interessa è cercare di capire se l'uso di determinate forme si concentri, ad esempio, in corrispondenza di una generazione, in corrispondenza di una regione italiana, in corrispondenza del sesso maschile o di quello femminile. E quindi per chi va su il coso e la cosa.com e partecipa al sondaggio, c'è appunto una scheda da riempire, naturalmente non è obbligatorio riempirla per intero, da riempire per poter partecipare in maniera proficua alla nostra ricerca. Ecco, quindi se avete sentito o usate un modo particolare di pronunciare il coso o la cosa, di nominarli, oppure anche quello classico, in modo che Francesca dice la parola più usata è questa piuttosto che quell'altra, fatelo, partecipate, e poi parleremo anche della ricerca appena sarà quasi pronta, ve la anticiperemo, speriamo di poterlo fare. Grazie Francesca, ciao. Grazie a voi, grazie. Io avrei avuto tante domande da fare, Silvio, Francesca, sì, ma certo. Mi sa che questa puntata sul blog la riprenderemo, lo dico perché stanno arrivando moltissime domande curiose su come si fa a guadagnare, perché si guadagna, cosa bisogna scrivere, cosa non bisogna scrivere, certo, eccetera, per cui probabilmente ne riparleremo. Speriamo. E volevo chiedere a Francesca la qualità, perché alcuni blog, forse molti, sono scritti male, invece sì, questo è un problema. Assolutamente, la lingua italiana è importantissima. Ti dicevo giusto stamattina che ho letto un foglio vicino a casa mia dove c'era scritto studente italiano da lezioni di italiano, studente universitario da lezioni di italiano da senza accento. Certo. Diciamo che è un po' lo specchio di... Sì, io direi di chiamarlo subito, sì, più che altro perché per fargli prendere lezioni, ecco, magari, ecco, più che no, per dare, diciamo che forse le persone hanno qualcosa da dire di importante, ma non hanno... Bisogna saperlo dire. Esatto. Piuttosto fate scrivere a qualcun esatto altro. Esatto. Nell'immensità, nel grande oceano che è internet, sicuramente ci sono dei contenuti che dal punto di vista linguistico non funzionano, quindi sarebbe anche importante riuscire a dare una mano a queste persone. Potrebbe internet essere utile per aumentare la capacità di scrittura, però allo stesso tempo purtroppo credo che questo tipo di contenuti poi a un certo punto vengono tralasciati e quindi il blog non fa più traffico. C'è ancora spazio per guadagnare con i blog? Assolutamente, diciamo che non si è ancora iniziato a guadagnare realmente con i blog, perché fino ad oggi le aziende o comunque il mercato in generale hanno sempre guardato i blog come i nemici da tenere lontani. Adesso molte di queste aziende stanno abbracciando i blog, forse magari in qualche caso in modo sbagliato, ma altri hanno capito che è giusto il dialogo, l'interazione e il rispetto reciproco. Allora, Fables, ciao, chiudiamo ciao, con Stefano. Te. Ciao, Fables è il nostro blogger, nel senso che lo usiamo spessissimo nelle nostre puntate, il suo blog è Bloggerilla, ovviamente nasce dalla tua passione per la pubblicità non convenzionale. Sì, assolutamente, nasce nel 2007, io sono comunque stato sempre un appassionato di pubblicità, in particolare anche di web. In quel periodo, nel 2007, quando nasce Bloggerilla, lavoravo in una web agency, quindi avevo possibilità comunque sia per la prima volta di conoscere lo strumento più da vicino, e ho iniziato insomma a parlare di pubblicità, ma di quella non convenzionale, cioè, esatto, che è la pubblicità non convenzionale, il guerriglia marketing, e sempre con molta passione, cosa che continua ad esistere a distanza comunque di... Ecco, quanto ti impegna? Anni. Ecco, quanto ti impegna questo blog? È cambiato molto, nel senso che inizialmente era molto di più, anche perché poi le fonti erano sicuramente di meno a disposizione, quindi era anche molto più complicato magari cercare la notizia interessante da postare. Poi con il passare del tempo, insomma, uno prende anche un po' di allenamento, quindi mentre prima magari per scrivere un post ed editarlo bene, anche perché non basta magari scrivere un post per quanto mi riguarda, cerco anche di dargli una forma estetica particolare anche per renderlo il più personale possibile. Anche perché è quello che poi fa la differenza. Ti è servito, sì, ti è servito nel tuo mestiere a guadagnare questo blog? Ma guarda, se vogliamo ci ho fatto intorno alla mia carriera professionale, nel senso che non ci ho guadagnato soldi con il blog direttamente, ho messo per un periodo e continuo a mettere ogni tanto degli annunci pubblicitari che mi portano giusto il necessario. Le spese, diciamo, certo, il dominio. Il dominio annuale, se vogliamo. e per il resto ho cercato di utilizzarlo più che altro come, come autopromozione, se vogliamo. Però è servito, quindi, da questo punto sì, di vista. Assolutamente, io lo consiglio a chiunque, anche perché insomma, ahimè, quello che sto vedendo è che molti di molti blog che conoscevo e che seguivo quotidianamente, piano piano con il passare dei giorni vengono assorbiti dai social network, nel senso che uno vede che sul social network c'è più interazione, o meglio, c'è un'interazione più diretta, quindi magari, ahimè, abbandonano il blog a discapito della pagina Facebook o piuttosto, non so, di un account su Google Plus. Certo, comunque il consiglio è ancora di provarci, ecco, se avete una passione, sì, vi piace scrivere, provateci, e le cose con pazienza possono portare anche a un guadagno, o in questo caso essere un traino per il vostro mestiere, ecco, esatto, come è successo a Fables. Grazie, ciao Fables. Grazie a voi. Ti ricordo il suo blog, ovviamente, che è blogguerriglia.it, scritto blogger guerrilla, ovviamente. E adesso non so se ha il blog, ma non credo che l'abbia ancora fatto. Formaggio Montasio, il formaggio DOP a 4 stagionature. Vi presenta il gastronauta. Vogliamo il blog del gastronauta, Davide. Buongiorno, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica, ma per ora dovete accontentarvi del sito gastronauta. Quello sì, c'è. Ecco, di sì. Facebook e di Twitter. Ecco, quindi, stai già dando abbastanza, questo. Beh, dire. Direi ottimo. Ma sai, poi è un sito che, sul quale scrivo spesso, quindi ci sono anche le risposte molto di chi è interessato al cibo, quindi praticamente può essere anche considerato un blog, insomma, è un blog sito. Sì, ma anche perché ormai i blog non hanno un po' più quella funzione di commento, anche perché i commenti, ormai la gente legge e magari non commenta più, alla fine anche quello è diventato, insomma, un secondo piano. Senti Davide, tu che ti sei avvicinato, non dico tardi, però un po' dopo, no? A questo, al social network, è una cosa che hai scoperto recentemente, e come lo trovi? Cioè, è fondamentale, utile, è importante che ci sia anche per chi fa il tuo mestiere? Ma guarda, devo dire che innanzitutto io il sito è da lungo tempo che ce l'ho, e sicuramente a Facebook no. Facebook no, e devo dire che il tutto si è messo in moto con Facebook, sicuramente. Nel senso che ho già un seguito abbastanza, intorno a 7.000, quindi non sono pochi che mi seguono, no, su Facebook. Te lo aspettavi? No, non me lo aspettavo, ma tantomeno me lo aspettavo da Twitter, perché anche Twitter il numero è abbastanza considerevole, siamo intorno a 3.000, quindi non mi aspettavo questi due risultati. Certamente è utile, perché ti serve. Ti faccio un esempio: io il venerdì sul sito del Gastronauta metto già il tema della trasmissione. Metto il tema della trasmissione e devo dire che già al sabato mattina, quando vado in trasmissione, ho già una serie di commenti che mi servono molte volte anche per indirizzare la trasmissione o per prendere degli spunti da questo, sia dal sito che da Facebook. Quindi secondo me è molto, molto importante, anche perché vedi quali sono gli argomenti che più o meno interessano, e vedi anche gli argomenti che possono diventare per lungo tempo così un modo di discutere, un tema di discussione. Ti faccio un esempio: sabato io ho fatto la trasmissione ieri sulla polenta, venerdì avevo messo diciamo il tema della, sì, della discussione, e sono venuti fuori vari modi di come preparare la polenta o di che cosa significa la polenta per molti territori, quindi è sicuramente uno strumento molto importante. L'altra cosa veramente divertente che non avrei mai pensato e mai creduto, io anni fa ho scritto un libro che sono le ricette della mia memoria. Ebbene, ogni settimana io metto sul sito una mia ricetta, che però non è una ricetta normale come tutti i blog di ricette, dei quali lasciamo perdere, non voglio entrare in polemiche, e devo dire che io racconto la ricetta, nel senso che racconto dove, come, quando questa ricetta è stata importante per me, per la mia memoria. Sì. E poi metto ovviamente come si fa questa ricetta. Cioè rendi la ricetta emozionale, ovviamente, raccontando una storia. Esattamente, ma poi metto anche veramente come si prepara, però metto sempre ricette semplici, date le mie doti scarse di cuoco. E allora, però c'è un dibattito incredibile, cioè appena esce questa ricetta sul sito, su Facebook, è un bombardamento, perché tutti discutono, ma no, io metto questo, ma no, io metto l'altro, e poi mi chiedono, ma perché tu hai messo questo, perché tu non hai messo l'altro? Quindi devo dire che su questo veramente è stata la mia più grande sorpresa. Guarda che Silvio De Rossi è già qui che sta ascoltando e dice, ma forse mi serve, mi piace come idea. Sempre alla ricerca. Senti Davide, e tu invece usi la rete per informarti sui vini, per esempio? Cioè per leggere che cosa scrivono, per andarne a cercare di nuovi o no? No, assolutamente per andare a cercare di nuovi no, perché non trovo questa peculiarità, assolutamente. Cioè trovo che chi, diciamo, più o meno fa questo mestiere scopre poco di nuovo. Lo scopro dalle email che mi arrivano, dai radioascoltatori o da chi mi segue, questo sì. Anche molti ristoranti, molte trattorie le ho scoperte in questa maniera. E ti dirò di più però, che molte volte sono delle ciofeche. E perché molte volte credo che chi scrive sia molto interessato a quel luogo, e io quando vado a verificare, perché verifico spesso, perché come ti dicevo molte volte sono state veramente delle esperienze utilissime per me, e diciamo che un 60% trovo che siano molto interessanti. Sul vino qualche volta, però non mi capita molto spesso, più sulla ristorazione trovo. Ecco, vabbè, poi... sui prodotti, non lo so, mi scrive qualcuno e mi dice, guarda che c'è questo macellaio in questo posto sperduto della Calabria o della Toscana, non so dove, che produce un cotechino particolare, che produce, non lo so, un salume molto particolare, oppure della carne straordinaria. Ecco, questo sì. Sul vino devo dire che non ho mai avuto questo tipo di scoperte. Devo dire che i blog che scrivono di vino di solito scrivono per discuterne su un vino e non per scoperirlo. Ecco, beh, questo è un po' interessante, questo anche Silvio sei d'accordo. Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi è una linea da prendere in considerazione. Sì, anzi, vogliono confrontarsi con altre persone. Ho provato questo vino, l'ho provato magari insieme a questo tipo di menù, siete d'accordo o meno? Oppure questo vino voi con che cosa lo accompagnereste? Quindi... Invece di dedicarsi alla scoperta, esatto, è esatto. Interessante anche per un utente che magari non conosce il vino bene e quindi non saprebbe come discuterne, assolutamente, ma quello che vuol fare è assaggiarlo. Sì, no, anche perché magari per molti è difficile poter girare, fare, quindi è molto più semplice magari parlare di una cosa perché già si sa che c'è, piuttosto che sapere che esca perché non ho i contatti col tal vigneto, con la tal azienda, quindi... forse questo è uno step successivo che stiamo lanciando in rete. Ecco Davide, adesso allora hai dato un'idea che puoi prendere tu, ovviamente, e lo possiamo regalarla tranquillamente agli ascoltatori che volessero farlo, giusto? Ma sai, io credo che molti blog sul vino siano non per confrontarsi ma per scontrarsi. Può essere anche questo. E quindi credo, no, secondo me ad esempio sugli accostamenti, sì. Se uno lancia degli accostamenti, secondo me veramente si può parlare a iosa, nel senso che io, mi sembra di averlo detto anche più volte durante questa tua trasmissione, che io non sono assolutamente per gli accostamenti geometrici o aritmetici. Io ma sono quelli del piacere e basta. No, io sono personale. Per il punto G, sì, esatto. Che è il punto del gastronauta. Il piacere personale. Ecco. Il piacere personale, quindi dovrei fare una cosa di questo genere, non riuscirei a creare un dibattito perché a questo punto uscirei fuori dalle righe. Appunto, infatti la chiave invece è fare un blog sul vino dove si presentano i vini, si dice cosa si è scoperto, tralasciando tutta la parte accostamenti, giudizio eccetera, da quel punto di vista. Grazie Davide, continueremo a seguirti a questo punto dappertutto, Twitter, Facebook e il tuo sito che è Il Gastronauta. Ciao, buona domenica. Buona domenica. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie anche a Marta Cagnola che ha scritto un messaggio carino e pare fosse anche lei a quel famoso ritrovo di quadernini no, di blogger, sì. Insomma di appassionati di rete dove è nato il blog dei quadernini, e devo dire che anche Marta è molto attenta a questo perché sta utilizzando Twitter anche nella sua trasmissione e quindi abbiamo un po' tralasciato Twitter, ma ci sarebbe allora da dire un po'. Lascio a voi ascoltatori la scelta, nel senso, vi interessa l'argomento, volete parlarne ancora? Io personalmente lo farei perché sono un grande appassionato, ma perché credo che l'informazione si stia spostando verso questo punto, quindi sono convinto di questo. Però scrivetelo, fatemelo sapere via SMS, via Facebook o scrivendo a guerriero@radio24.it, così vediamo se rincontrarci in onda, perché poi noi ci incontriamo fuori onda, certo, grazie alla piattaforma, quello però dicevo in onda. Grazie a Silvio De Rossi, grazie a voi, e andate su blogosfere.it per avere tutte le informazioni. recensioni in generale, cercate le piattaforme di blog per aprirne uno se desiderate e fatelo, questo possiamo se dire. Volete delle informazioni scrivetemi a silvioderossi@blogosfere.it, se mi volete contattare va bene questa mail, se no cercatemi su Google, Twitter, Facebook, scrivo abitualmente di sport perché è la mia passione, quindi insomma ci vediamo su internet e... Ecco, infatti non ti ho domandato tu da dove hai cominciato, perché sei partito proprio da lì, dallo sport, e questo è un altro capitolo. Le passioni possono trasformarsi in un mestiere, sappiatelo. Grazie Silvio De Rossi. Grazie. Ciao. A voi. E ci sono le previsioni del tempo, poi giochiamo con il mistero in 24 minuti. Il riposo del guerriero. Siamo pronti alle 11.37 a giocare, nel senso a cercare di farvi portare a casa i 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, perché comincia il nostro mistero in 24 minuti. Un mistero in 24 minuti. Per prenotarsi 800 24 00 24. La risposta può essere una notizia della settimana, un personaggio, qualcosa di particolarmente conosciuto. Dovete arrivarci attraverso gli indizi che vi proporrò, ma più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Si parte da 1000 euro e questo è il primo indizio. Qui, questo è il primo indizio di oggi. Fabrizio Di Bari, ciao, buona domenica. Sì, ciao. Ciao, buona domenica. Eccoci qua a dare una risposta oppure ad ascoltare un altro indizio e a far scendere il premio a 500 euro. Fabrizio, questa è una canzone molto famosa, non neanche presentata, era Billie Jean, Michael Jackson. Mi butto. Vai. Ho sentito la notizia del manager che ha sequestrato una escort per farla abortire. Potrebbe perché essere, la canzone, lo ricordo, Billie Jean parla proprio di esatto, questo, sì. Esatto. Grazie Fabrizio, sai che non posso dire niente, no? Lo scopriremo al 24esimo minuto. Buona giornata. Okay, grazie, buona giornata. Francesco da Modena. Ciao. Ciao Francesco, siamo ancora a 1000 euro, Senti, io volevo sentire un altro indizio. Allora scendiamo a 500 euro. Francesco, io non so se tu hai riconosciuto questa canzone, è stata cantata da tantissimi artisti, sentito da Mac the Knife, la ballata di Mac, il protagonista dell'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, e questa è la versione di Frank Sinatra. Questo era il nostro secondo indizio. Mac il coltello, è tradotta in italiano così. Tradotta, no? Mac il coltello. Ma vabbè, ma prendila così, È la traduzione proprio letterale. La ballata di Mac si titolava in italiano. La ballata di Mac. Io pensavo a pensavo come indizio che era un Billie Jean, che è di Michael Jackson, che è nato a Gary nell'Indiana. Gary, che è il nome di Loboton, membro dell'equipaggio che ha chiesto l'indennizzo di 100 milioni di euro. Ah, ok, ho capito. Grazie Francesco, ciao, buona domenica. Ciao, gli aggiornamenti sul traffico e poi torniamo con il mistero in 24 minuti. Strade in diretta. A Roma difficoltà di circolazione a seguito di un incidente in piazzale della stazione Tiburtina. Per questo motivo si formano code anche sulla tangenziale est a partire dall'uscita dell'autostrada A24. Altrove le uniche segnalazioni per chi è in viaggio sono legate sempre alle condizioni meteo, nevicate anche abbondanti sui percorsi tra Piemonte, Liguria e nord-ovest Lombardia. Tempo in peggioramento anche sul medio-basso versante adriatico, dove potrebbe cadere la neve anche a quote basse. Nelle prossime ore pioggia e forti temporali attesi poi su Sardegna, Sicilia e Calabria, in estensione a Lucania e Puglia. Non ci sono altri aggiornamenti, a più tardi. Un mistero in 24 minuti. Roberto da Milano, ciao Roberto. Ciao. Allora, cosa facciamo? Ci buttiamo. Diamo 500 euro. Sì. Che cos'è? Dal resto del fondatore della società, quella delle protesi al seno francese, Jean-Claude Mars. Grazie Roberto. Ciao. Ciao, chi lo sa. Giovanni da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Ciao Giovanni, siamo ancora a 500 euro, due gli indizi scoperti. Cosa vuoi fare? No, mi butto anch'io. Anche tu? Allora aspetta, sì. Sentiamo quali sono i due indizi che abbiamo sentito fino a questo momento. Ok. Put that someone for chance, be Mac the Knife. La ballata di Mac, ovvero Mad Knife, che è andata rassinata, tratta dall'opera di Tre Soldi, e questo è il secondo indizio, il primo era Billie Jean di Michael Jackson. Allora, Giovanni. Io pensavo alla ballerina moldava della nave Costa . Grazie Giovanni, non okay. Aggiungiamo altro, buona domenica. Altrettanto, ciao. Nilde da Ravenna. Da Reggio Emilia, buongiorno. Ciao Nilde, buongiorno a te. Anche io mi butto, sì. E io dico il viceprefetto di Torino che ha fatto ricorso a se stesso per una multa presa durante un tragitto automobilistico. Sono diverse, è successo mi sembra anche a Milano, se non mi sbaglio. Grazie Nilde, ciao, buona domenica. E beh, certo, la prassi è quella, bisogna fare ricorso al prefetto, e anche se è lo stesso prefetto essere stato multato, si autoricorre. Doriana, da Alessandria. Buonasera, buongiorno. Ciao Doriana, cosa vogliamo non fare? Non ho la più pallida idea di cosa potrebbe essere. E allora facciamo un altro indizio? Lo vuoi ascoltare? Sì. Siamo certo. A 300 euro. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Caspita, Doriana, hai conosciuto questa canzone? Comunque no, hai... assolutamente, perché sento malissimo. Allora, era I Feel For You, cantata da Prince. Ecco. Cantata da Prince. Assolutamente nulla. Niente. Non riesco a collegare nessun fatto della settimana con queste canzoni. Devi prendertela con Giorgio De Luca oggi, guarda, se non risolvi, perché è lui che mi ha dato l'idea del mistero di questa settimana. Per cui vabbè. Niente. Non è farina del mio sacco l'idea. Certo. Niente. No, non saprei proprio cosa dire, non collego nulla. Doriana, io ti ringrazio, mi dispiace però. Per la prossima importa, sarà. Ci riproverò. Brava, così si fa. Ciao Doriana. Sì, salve. Un bacio, grazie. Ugo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ciao Ugo. Io ho scelto solo, guarda, gli indizi, però non dati la colpa per la soluzione. No, io rimango sulla tua idea. Iniziale. Sì. Sono le impronte di Michael Jackson ad Hollywood, fatte dai figli di Michael Jackson. Grazie. Ciao Ugo, buona giornata. Ciao. Gloria da Torino. Ciao. Ciao Gloria. Senti, io mi sono fermata al secondo indizio, il terzo non riesco più a collegarlo. Comunque ho pensato al battibecco tra la Fornero e Passera. La Fornero ha detto Passera che è troppo ottimista. Sì, ne stanno dicendo di tutto alla Fornero, viceversa. Ecco, quindi, delle nostre parti, quindi tutto su quello. Va bene, grazie. Grazie. Grazie a te, ciao. Ciao, Gemma da Verona, buongiorno Gemma. Buongiorno, senta, ci può dire dare una risposta che ha dato già un altro altro concorrente. Per la verità no, perché se no, fosse quella, no, allora ne dico un'altra. Eh sì, perché se fosse quella giusta vincerebbe se l'altro concorrente giusta, e non tu. Esatto. Quindi. Allora io provo con Celentano, che ha accettato di partecipare al festival per 300.000 euro a serata. Con grandi polemiche. Grazie Gemma, esatto. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Valeria da Bari. Ciao, buongiorno. Ciao Valeria, buongiorno. Allora, io ci provo. Ho pensato alla sfilata di Jean Paul Gaultier per Amy Winehouse. Grazie Valeria. A voi. Alberto. Buongiorno. Ciao Alberto, senti, nessuno ha ancora indovinato. Lo diciamo chiaramente, nessuno ha ancora indovinato. Cosa vuoi fare? Un altro indizio c'è. Oh, finalmente, qualcuno che dice. Sentiamo gli indizi, eccolo qua. Ma che sia vita, che io schiavo non sia di una squallida idea, che quel letto non sia la chiave di tutto. È vero che ti sai dare, l'amore non è godere, l'amore non è un affare, non è un modo di dire l'amore. Sesso. Di questa canzone, Alberto? Qualche anno fa, però. Sì, va bene, spero anche che tu possa ricordare bene anche il contenuto del testo di questa canzone. Sesso OS Renato Zero. Esatto. Ma io avrei pensato all'arresto di quel produttore di silicone Persini. L'hanno già detto. Allora me lo son perso. L'hanno già detto. Niente. Allora non avrei la più pallida idea. Niente, prendi terra con Giorgio De Luca. Ciao Alberto. Va bene. Nicolò da Varese, buongiorno. No. Vai Nicolò, ciao, buongiorno. Per me. Dai che lo sai, ti lo so che lo sai tu. Vai. È la figlia di John, quella della Fiat, Eneca. Vita. Nicolò, non è la risposta giusta, cosa ti devo dire? Alfonso. Ciao Stefano. Senti, tu non hai telefonato, quindi tu puoi rigiocare, ok, la settimana prossima, va bene. Però cosa avresti risposto? Io avrei risposto alla scoperta da parte del fisco degli evasori. Va bene, allora niente, ciao Alfonso, non hai mai telefonato, non ci siamo mai sentiti, tanto eri fuori tempo massimo. Allora puoi rigiocare. E diamo la risposta? Diamo la risposta. La risposta è Boateng, infortunato, pare per il troppo sesso con Melissa Satta. Ecco, queste sono le notizie di Giorgio De Luca, ecco, quindi volevo dirvelo. A lui piaceva, no, ma anche a me è molto divertente. Perché Michael Jackson con Billie Jean? Perché Boateng aveva fatto il Moonwalker, no? E quindi è diventato famoso anche per questo passo che su YouTube potete vedere tranquillamente. Poi perché l'opera da tre soldi, perché è nato a Berlino, quindi questo è il motivo della scelta, visto che Bertolt Brecht è berlinese, e Prince perché il nome è Kevin Prince Boateng, e sesso S proprio per questo fatto, visto che se ne parla in rete, pare che il suo essere fermo per un mese sia per il troppo sesso con Melissa Satta, tutto perché lei ha rilasciato un'intervista su Vanity Fair dicendo che lo fa per molte ore con Boateng. Però vabbè, è una notizia di gossip, abbiamo voluto parlare di gossip, dare questa come soluzione al mistero, perché sennò altre cose sarebbero state da dire, ma sarebbero state molto diverse. Detto questo, ci sentiamo domenica prossima. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, Stefania Tagliaferri in assistenza, a Paolo Corleone in regia e a voi per l'ascolto. Ci sentiremo la settimana prossima alle 10 puntuali con il riposo del guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallerini. Tra poco si può fare.